voi la mensa del mezzogiorno la gestite solo tramite convenzioni oppure se capita qualcuno qui a pranzo? Ma questo è nato per i soci, cioè tipo circolo, tipo cosa. Quindi è dovete essere socio della cooperativa. Noi abbiamo la licenza per fare piatti d'asporto e quindi la persona può venire, si prende il pranzo e se lo porta a Devo casa. ordinarlo prima. Ma noi abbiamo chiesto, chiede l'email e li mandiamo, il lunedì li mandiamo il menù della settimana e così uno magari telefona oppure sa che cosa c'è, passa e chiede. Ecco. È in questi termini perché prima volevamo testare quanto eravamo in grado di fare, cosa potevamo gestire. Finora questa problematica di diventare soci, che poi è 25 euro per tutta la vita, non è che ha creato problemi, quindi lo spieghi, dice, dopo quelle, se diventa un po' la fidelizzazione, gli dici guarda che il problema è questo, no, i ragazzi della club per esempio hanno proposto proprio di, sono amici, cioè, di accogliere in cooperativa e di decidere è un po' un discorso. Si inizia così proprio perché non vogliamo che sia cliente, non che sia il rapporto. Se comincia un rapporto, tu vieni, un po' alla volta diventi, no, sei uno di noi, ecco. Io vedo anche io appunto con cui si inizia, poi adesso siamo due, tutto uno. È come appunto l'amico che viene a mangiare.